ti sei ridotta a uno straccio, quell'uomo che dice di amarti ti ha svuotato il cervello, riempito di muffa l'orgoglio, schiava di una strada polverosa, un cucchiaino con il rischio di overdose. Hai superato ogni limite di tolleranza e adesso non puoi più restare senza. Ti ha riempito la testa con piramidi al rovescio, mentre mi parli chiedi eroina o un rospo. Il tuo viso è altrove nella giungla della tua astinenza, in questa squallida stanza piena solo di tua assenza. Arida pioggia, macabro fieno, lasciatela in pace, statevi lontano. Allontanati dai lupi, dall'inferno del veleno. Vienimi vicino, io ti amo, vorrei che tu mi vedessi come io ti vedo, anima e corpo divisi da un vetro opaco. Vorrei che tu mi parlassi come io ti parlo, a mani nude graffia, fai uscire il tuo più bello. Mi lascerai ancora prima di avermi avuto, dato il tuo amore come cibo avariato. Farai di me una padella con i buchi, ci arrosterai i miei capelli, i miei occhi crudi. Eppure io a te credo perché ti amo. E non dirmi che sono buono, che il buono spesso è scemo. I datteri sono buoni, quelli di Tunisia. Abbiamo tutti avuto una storia in avaria. Il tuo oggi è un'altalena di onde senza scia. Proviamo a sradicare questi rami di follia. Io amo la tua terra, i tuoi occhi, tu sei pura. Dai, passami quel lago che voglio ricucire l'aria. Arida pioggia, macabro fieno, lasciatela in pace, statemi lontano. Allontanati dai lupi, dall'inferno del veleno. Vienimi vicino, io ti amo, ti amo. Arida pioggia, macabro fieno, lasciatela in pace, statemi lontano. Allontanati dai lupi, dall'inferno del veleno. Vienimi vicino, io ti amo, io ti amo. Se tu ami i pesci, io li mangerò crudi. Se vuoi andare in bici, ti seguirò anche a piedi. Se tu ami il largo, allargherò il mio stretto. Se tu ami vincere, con te saprò anche perdere. In rada dalla riva, lontani a mille miglia, in piedi sotto il cielo senza alcuna briglia. Se vuoi vedere i delfini ballare sotto la luna, prepara il cannocchiale che questa sera è anche piena. Se ami l'estate quando il caldo è un forno, se ami il mare grigio, le spiagge dell'inverno, proverò a darti corda che hai bisogno solo di te, ritrovare la tua strada e se vorrai sarò con te. Arida pioggia, macabro inferno, lasciatela in pace, statevi lontano. Allontanati dai lupi, dall'inferno del veleno. Vienimi vicino, io ti amo, io ti amo. Arida pioggia, macabro fieno, lasciatela in pace, statevi lontano. Allontanati dai lupi, dall'inferno del veleno. Vienimi vicino, io ti amo, io ti amo. Arida pioggia, macabro fieno, lasciatela in pace, statimi lontano. Allontanati dai lupi, dall'inferno del veleno. Vienimi vicino, io ti amo, io ti amo.